io quando arrivo al mese di maggio di tutti gli anni ho una sensazione all'interno che non ve la so descrivere, penso sia uno sfarfallio. E dicono che quando ci si innamora c'è lo sfarfallio, ma non è sempre così. E sono molto attenta. Però è stata dura, sì. Ma nello stesso tempo è stata pesante, ma ha dato tanto questa esperienza. Con la scossa del 20 è rimasta integra la chiesa, era piena di polvere, c'erano calcinacci dentro, eccetera. Ma con quella del 29 il timpano è franato, si è proprio riversato sulla piazza. E il soffitto era completamente, diciamo, o caduto oppure si vedeva fuori. E anche sui lati, perché tutte le cappelle, le volte laterali, passava la luce. Ma ci siamo andati, noi ci siamo andati con i vigili del fuoco a prendere i quadri, a prendere le statue, e quando abbiamo fatto questa cosa qua, che era a metà luglio, 40 gradi, un caldo bestiale quell'estate lì, la piazza era transennata fino qui, fino all'attuale tabaccheria, era transennata proprio, qui davanti c'era piena di gente, perché comunque questa immagine di queste tele, che da decenni, da secoli potremmo dire, noi abbiamo sempre visto là dentro, sfilare per la piazza con la squadra dei vigili del fuoco, beni culturali, i carabinieri che le scortavano, alcune delle quali anche di pregio. Insomma, io ho visto un sacco di gente, anche gente che non pratica la chiesa, lì davanti, ho proprio capito l'importanza dei luoghi, dei luoghi. E infatti, quando poi l'abbiamo riaperta, nel 2016, e là c'è la locandina dell'evento, il 29 maggio, c'era tutto il paese.